che ho io in quel bar, no, l'ho comprato. C'è scritto RB, come scaccia RB, BIP non era. Ha potuto darlo in A e me lo danno in FM il BIP. Ecco, guarda se è un compressore questo affare, se è cambiato qualcosa. No, quello è l'eco, c'è l'eco inserito. Per carità, razza di cagazza. Peccato che non si può togliere perché è di quello, tutto SMD, secondo cosa tutti rovina l'apparecchio. Se no l'avrei ucciso, le sparo. Al limite posso togliere il tasto. Anche lì che non appendo devi fare a pizzi. Che se una vergogna è. Ecco. Ecco, cioè, tipo reverbero, ma si sente la ripetizione non capibile, capito? Non è lento, tipo quello che c'ha l'eco del Saturn Echo, preciso. E quello originale è così, poi se lo vuoi modificare basta girare il trimmer dove c'è la schedina e cambia totalmente l'eco, diventa lento, capito? Una ripetizione o due quando parti, come se fossi dentro la chiesa. No, perché al limite si poteva utilizzare come compressore, ma non certo come effetto ecco che fa cagare, soprattutto in banda laterale, è quasi inusabile. Questo c'è anche Tuni, CTS, poi DCS, Digital Color Squelch, quelle cose lì. Ma giusto per un utilizzo da combattimento. Aspetta che però siccome scaldano anche questi maledetti, io li utilizzo anche con massa, sono due watt, adesso va bene, perché scaldano parecchio sul fianco, che tra l'altro sul fianco non c'è neanche il coso lì, come si chiama, il finale è sempre freddo, mentre invece la parte del ricevitore, quando riceve le persone, l'audio, quello amplificatore audio, scalda parecchio. Ah, si sono integrato senza tappetire, e quindi scalda per quello. Sta tranquillo, è attaccato allo chassis, quindi scalda un bel. Invece il finale c'ha il dissipatore all'interno e quindi è più raffreddato, meglio la fredda. Ma questo BIP tu non lo puoi togliere neanche? No, questo BIP non lo posso togliere da questo apparecchio, è inserito all'interno del baracchino, è un RB4 della Intec che adesso non lo fabbricano più, figurati, sono riuscito a ricordarmi i collegamenti, l'ho portato a tempo e l'ho collegato qui nell'FM500S, capito? E anche l'altro BIP invece ce l'ho nel 2009, lì lo posso quasi escludere, posso mettere a 1 o a 4, oppure a 2. Perché per farti riconoscere, no, qua ne ha uno che è regolabile, perché c'è anche, solo che non mi ricordo, vediamo un po', vediamo se funziona, No, in trasmissione non funziona una mazza. Io ce l'ho messo, una volta c'era il periodo che rubavano i marchini, quindi ero già più non riconosceva nessuno quelli a 4 ottoni, allora ho preso, ne avevo venduto una quindicina di questi, un giorno avevano rubato un baracchino a uno dalla macchina, ha preso quello, è entrato, come sentito il bip, ho telefonato a parola, dimmi che c'è il baracchino tuo in uso, e tu chiedi dove abita, e così gli inviti qualche cosa e tu ti fai ritirare il baracchino, solo io dico, gli tiri qualche bastonata a testa. Ecco, questo entra in funzione adesso, è quello senza, cioè regolabile, no? C'è il 7, lo puoi regolare, è di tipo lungo, senti? Io già lo sento, già. ho sentito, l'altro giorno ho sentito un bacchino che c'era il mitra Trezzoni, era di uno dei produttori, sì, quello che stava facendo, che ha aperto il pratica parecchio, che l'ha danneggiato e stava cercando un tecnico per sistemarglielo, perché c'era uno di Albernazza, e poi Albernazza senz'altro era la questione di microfono più che altro, capito? Evidentemente o è collegato male o cosa, perché non può essere, a meno che non sia l'alimentatore, che può darsi che sia anche quello, se no basta che un ponte di Dio di Valentite, ma voi erosi l'alternata nell'apparecchio. Senti, questo invece è quello delle radio professionali. Ah, tipo quello della tipica. No, è semplicemente, in realtà non è un bip, è un cinquettoni, capito? Quello che usano per mandare la sigla dalla radio. Ah, capito. Io pericolo sapere, l'unico bip, cioè, bip che mi piace come è quello della tipica, quando mollano. Avanti. Poi c'è il computer, si riconosce subito, no? Ogni apparecchio in pratica, quando schiaccia lo portante lì dal tram appare come si chiama, la 3, la 4, la 5, capito? Quindi lo sanno subito chi è che sta trasmettendo. Sì, sono tutti così questa radio. Queste ti danno anche la posizione, quindi se c'è una cartina le puoi seguire lungo tutto il percorso. E loro penso che ce l'abbiano lo stesso, perché ogni tanto li chiamano per dire di rallentare oppure di accelerare. Tutto lì. Oramai sono tutti questi apparecchi di nuova generazione, hanno tutti i GPS. Che sono le baracche, ancora non ci hanno pensato a metterlo. Eppure sul canale 22 c'è una stazione che è in Germania che fa PRS, praticamente tutti quelli che hanno il veicolare sono connessi a questi server che hanno, ne hanno più di uno in Germania e in Olanda, ma sono grossi, si sentono anche qua, figurati. Vabbè, che oramai tutto di più c'è, comunque la precatura nuova che stanno costruendo, stanno uscendo bene gli apparecchi adesso, te lo sto facendo bene, capito? Quindi non è come quelli vecchi di prima, cioè, per carità. Infatti, io avessimo avuto 30 anni fa questi apparecchi, oi, sarebbe stato tutto spettacolare, solo per gli scanner che ci sono ora, in 2 secondi ascoltavi qualunque cosa. Cioè è vero. Comunque sul Sen FM, se qualche giorno ci fai una passeggiata, c'è un ponte ripetitore, c'è, di quelli pappagallo per esattezza, e deve essere roba ucraina, roba, una cosa del genere, e quando c'è la propagazione alta, visto che vado su sì e mi riascolto la voce tranquillamente, poi c'è lo GPP finale a 4 toni. Ma non è controllato oppure occorre il tono per attivarlo? No, nessun tono. Tu schiacci portante e parli tranquillamente e ti riascolti la voce. No, non c'è nessun tono, è libero. Dimmi Luca, caro. Cosa ti è successo? A me adesso non è successo niente. Con la foto è messa su Facebook. Ah, adesso qui ci abitando a casa, ho preso come si chiama, mi stavo facendo il video, pensate che mi sono stato di colpo e ho preso la specchiera nell'angolo, e poi sembra fatta sempre nello stesso sopracciglio già tre volte che mi succede con questo soffaccio di acqua, sempre lo stesso, mi apro, poi questa volta tre punti, l'altra volta me l'avevamo messo 6 o 7, figurati. Ma non ho capito, cosa ti è successo? Sono andato a farmi un bidet, ho detto, siccome c'è il lavandino, il bidet che sono a poca distanza, capito? Quando ti siedi, c'è la specchiera proprio sopra il lavandino, che è leggermente più larga del lavandino, quindi come ti sollevi se non stai attento? Metti in pieno la specchiera. Io ho beccato nell'angolo con la fronte, però con sopracciglio. Invece Simone l'ha pigliato proprio al centro della testa l'altra volta, mi ha fatto male. L'ha fatto, mi c'è tocca mentre c'è un liquido, gli ho detto, visto, hai detto, come è successo a me, è successo anche a te, gli ho detto, questa specchiera, ho detto, bisogna che la faccio volare, ha detto, più piccola, almeno ogni volta che mi siede a farmi bere, vuole attaccare la testa, già basta il muro della manzata, hai visto quando entri qua, che è basso, no? E secondo come ti giri, ti sbatti la testa al muro. Tu bastavo fare il bidet, vabbè dai, ci sono stato giusto a sapere cosa ti era successo, andava dai, che sto per uscire, ciao anche Gianfranco, riprendi. Sì, ciao Luca, buonasera, e quelli sono i primi colpi di vecchiaia mia e Antone, quando si inizia a diventare anziani si tende sempre a stampare. No, non sono stampato, perché se sei stampato mi sei fatto male davvero, guarda, l'unico luogo che ti fai male è il bagno, solo il bagno, o sei dentro una vasca o dentro la doccia e ti fai male davvero. Ma siccome ero seduto nel video, mi stavo facendo il video, mi sono sollevato le coppe e ho preso la specchiera, cazzo, gli ho preso un dolore, controllo con la mano, mi stavo facendo un bel sangue, ho preso e ho chiamato l'ambulanza perché non ce la facevo, non ero con niente a tamponare, capito? E quindi sono andato in ospedale, sono andato lì e alle 3 sono andato via alle 7:30. Ti hanno messo quanti punti? 3 me l'hanno messo, mi hanno cucito con la... sembra che mi abbiano cucito con la cucitrice, perché si vede il filo nero, si vede, mi hanno tagliato la sopra il sopracciglio e mi hanno messo si vedono i punti. Adesso lunedì devo toglierli. Sarà un bel casino perché in quell'angolo lì fa un bel male, fa. Riprendi Luca. Si è spostato quanto pare. Ti hanno ottenuto tutto questo tempo per metterti 3 punti. Mi sono fatto la foto, mi sono fatto il filmato dentro l'ambulatorio. Stavo bene, me l'ho sdraiato, gli ho detto, poi mi hanno messo una flebo, mi hanno messo, stavo aspettando goccia a goccia, gli ho detto, cazzo, direi che mi andava via altre di sera, gli ho detto, ascolta, sono già alle 7:30, ho detto, non è male pieno di stare qua, gli ho detto, aspetti un attimo, gli diamo il foglio di via e gli stacchiamo la flebo e se ne può andare a casa, mi ha detto. E addirittura la flebo, ma troppo ti facciamo la trasfusione. Per un taglio di 3 punti. Facevi come il Rambo, ti prendevi il filo a cucire, te lo cucivi tu e te toglievi tu i punti. Poi. Tipo Rambo 2. Ah, beh, non ci sono buono a fare una cosa del genere con un ago, io quello già c'era buono. Mi hanno trovato anche il disidratato, peccato perché a casa mi ero abituato a bere per dire aranciata, quella roba lì, capito, bibite, acqua, quasi nulla. Il medico dice, deve bere un po' di acqua, mi ha detto, quando esce da qua, vai a casa, prendi acqua, non bevo altro. Mi ha detto, va bene, non c'è problema, gli ho detto. Appena a casa subito 3 birre, così. No, bravo. Non potevo bere il birra, mi ha fatto sì. Niente birra. Sto bevendo aranciata, se mi finita una roba lì. La bagna nelle balle piene sto bevendo acqua, perché l'aranciata mi gonfia lo stesso. La birra, l'unica cosa che bevo posto nella birra in chiusa, cosa del genere, che o quella dello spicchio fa schifo. Che bevo quella. Bevendo quella limone che c'è lo spic, che è leggera, sembra acqua minerale, sembra, quando la bevi, una pranzo, una cena, per digerire. Allora, hai sentito il bip di propagazione? Secondo me non è di propagazione, dovrebbe essere quello del produttore. Se avanti ti vuole entrare, evidentemente non mi sente a me. Mi è sembrato quello che c'era l'altro giorno su 10 di produttore, se c'era il bip uguale. Ogni tanto lo fa. Vabbè Antonio, io mi devo allontanare. Riprendo dopo che mi stanno chiamando al piano inferiore. A dopo Antonè. Ehi, d'accordo. C'è propagazione tra di nuovo. Ah, va, a dopo la ci sentiamo. Antonello, col cuore. Vivi tutto. Col cuore. Col cuore. Magari, magari. Vabbè, com'è? Tutto a posto. Ehi, tutto a posto, tutto a posto. Non freddo nulla, grazie, mamma mia. Ma freddo mi. Sono uscito a parlare in casa 3 volte oggi. Poi mi sono rincalato a casa perché mi sentivo strano. E ho misurato con il termometro 37. È un casino, non lo dire a me. 8 anni, cazzo, tutte le sante sere. Tutte le sante sere, la mattina, la sera, adesso le apro la porta Antonè, fa quello che deve fare, quando ha finito, gli ho segnato con la zampa, beh, dava 2 colpi al vetro, apro e lo faccio rientrare dentro, io vado e pulisco, e basta, se non sta piovendo, se sta piovendo rimane lì e la tolgo la mattina, non me ne frega niente. Ah, beh, ti conviene fare così, sì, vabbè, siete in campagna, quindi, quando esci fuori, è più tranquilla la storia. Invece, quando in città è un casino, devi stare sempre incasinati. Cioè, prima cammini a destra, poi arrivi alla sinistra, perché non ci sei solo tu come un cane, ce ne sono altre, capito? E quindi diventa un togliaio, diventa. Un cane a destra, una a sinistra, una al centro, non sai manco dove cavo andare. Qua è così che stavo felice. Cioè, nel senso, almeno una quindicina di cani al giorno che incominciano dalle 8:30 dal mattino sino alle 10:30, poi la sera verso le 6 vedi gente pascolare col cane, cioè tu vieni in calore, cazzo, è una cosa impossibile, come sente l'odore delle cagnette in calore, ma guagna, cazzo, diventa scema le vento. Scappa gappa, e cos'è vuoi che ti dica? No, io ho finito, basta, ora organi, si arrangia la giura, scappa gappa, non chi sei, con Gianfranco? Ehi, siamo a Palazzo, c'era Gianfranco fino a poco fa, ho entrato Luca 2 minuti e poi si è spostato. Vabbè, no, mi ero un attimino fuori, sto facendo le cosette, mettendo a posto, adesso ho acceso un attimino così, giusto per vedere chi c'era, e ho sentito a te, infatti ho acceso questa, in Galaxy, le altre sono tutte spente, già mi senti bene, sì? E a voi avete ascoltato bene, ma che è? Se non vuoi più con questa macchina qua, sto usando l'FM500S. Dove mi aveva regalato Marco Condo, tanto che non lo stavo più usando, adesso sto usando ora, poi c'ho il coso del 2009 sotto, e con il 4000 c'era Giovanna in terrazzino con lineare, con 900 watt, devo stare a avere 50 baracchi. Chi è? Ehi, 8 watt sto andando io col Galaxy. Chi è avanti? Non ti ho riconosciuto. Oi, ciao Vanni, buonasera. Io oramai ha già abbandonato tutto, pure Noghi. E beh, bene stai. Sì. Buonasera a tutti. Non ci lamentiamo per il momento, non ci lamentiamo, io non guardo. Ma te sai cosa dico? Meglio che così non si può. No, non ne ho più voglia, manco qua, Vanni. Ha già abbandonato tutto, oramai. Caduta la torre di controllo, ha caduto anche l'operatore. È caduto il cartello, guarda. Ah, chi ha sempre il concetto che è lento, grazie. Ieri, diciamo, primo giorno del recupero, abbiamo chiuso martedì tutto, vabbè io mercoledì comunque, grazie. Abbiamo chiuso tutto e quindi adesso dovrei sono a Budoni. Per continuare là, ma non devo gastare di più, Vandi, se hai voglia di riposarti, riposati. Perché se no è un casino, è un casino, capito mi hai? Vabbè, no io proprio zero, no. Relax totale, solo lavoro in campagna, sistemando, facendo, adesso mi, come dicevo, i muratori mi devono finire di intonaccare una stanza del Calvario e passare le piante elettriche, le tracce sono già fatte, adesso finisco quella, poi devo fare altri lavoretti, ma poi basta, boh, mi fermo, che se no l'inverno ce lo passiamo così, con molta tranquillità, davanti al caminetto, come i vecchietti. Vai Antonè, per i saluti a Vannino. Ehi, ciao Vanni, saluto anche a te, ben sentito. Fai bene, io il caminetto ce l'ho, ma non lo posso usare qua, perché non tira un accidente, capito? Una volta l'ho provato, da un fumo a casa, sono andato 3 giorni che stavo affogando. E quando uscivo ho aprire tutte le finestre, un freddo, non te ne dico nulla in pieno inverno. E tanto arrivi il bacino, vabbè, io sto andando un po' di fisi, io un po', aspetta che aumentato, ho bisogno di una aumentabilità, aspetta, vero? Sì, sento il segnale, mi radio 3,5, ma già va bene, è chiaro. Vabbè, questo baracchino qua prende un sacco di 4M, sono FM500S, sembra una vattrice, sembra più che un baracchino. Ma adesso si è tolto male comunque, sul QRL. Aspetta, stacco questo, attacco il 2009, vediamo se mi senti un pochettino meglio, aspetta 2 secondi. Io ci ho passato con K, così mi senti meglio Fanny, KK. No vabbè, ma io non lo uso, io ho il riscaldamento, ho la caldaia, tutto il riscaldamento autonomo per i fatti miei, tranquillo, quando una girana l'attendo, quando una girana rimane il caldo, se ancora non l'ho accesa, figurati, perché freddo non ce n'è dentro la verità, fuori sì, ma dentro non ce n'è, quindi ancora non è acceso il riscaldamento. Tu già accesa la caldaia. Ma no, Radio 5, perfetto. KK, radio ne sto facendo molto molto poca, ma diciamo niente, giusto, così ogni tanto ascolto a loro, entro a salutarli, questo è ovvero, tutto da quando sono qua, non c'ho tempo, non ho voglia e ti ripeto, mi è passata un po' la cosa, no? Che già mi conosci, io sono gli alti e bassi, quindi, però, insomma, beh, le radio già ce le ho, quando ne ho voglia le accendo, quando no rimangono spente. Ah sì, io certo, sono affetto il tempo che non c'ero le radio, proprio un bel ho messo l'altra mia macchina, ma poi alla fine, non si sente più. Sì, anche io ce l'ho resettato, faccio, ma ogni tanto sento a Walter, sento a Paolo, Domenico, Roberto, quello di Alghero, che ho sentito anche a te l'altra volta che in macchina, che si è fermato anche a fare i gasoli, stavi parlando con, ricordo se c'era Paolo, se c'era Domenico, che gli hai detto appunto che quante volte ci hai parlato, anche mia presenza, ma lui è mezzo rincoglionito, quindi non si ricorda. Già ti ho sentito Vanni, non ti preoccupare, io c'ho tutto, ma diciamo che non c'ho niente, che non è dato. Vabbè, ho messo anche 8-5-7, ma qui alla fine non me ne esco. Adesso lunedì, vabbè, domenica lo monto, giusto perché devo andare lì a Buduri, tanto ormai quindi rimango 2 settimane, poi mi viene, poi vediamo come è stato. E io infatti, se ti devi fermare, hai già dato, mi sembra, no? Tutto il tiro deve fare un bel guru, quindi se ti devi fermare fermati un po', perché altrimenti poi la ripartenza viene pesante, non si può stare sempre pensando al lavoro, ogni tanto bisogna anche staccare tutto qua. Vediamo se è rientrato Antonello, Antonello si è rientrato. Sì, sono 2009, guarda un po' adesso Vanni se mi ascolti meglio. È un bel QRM, c'è Antonello. Già sto arrivando basso io a sorso perché lui c'ha l'antenna che non è in condizioni ottimali, oramai chi ce l'ha abbandonata, ma prima o poi ce la metterà nuova anche quella. Lo senti a Vanni, a Antonello, tu non te ne manca mai più. Sì, se ce l'ha spostato magari un attimino, l'hanno chiamato al telefono, comunque adesso dovrebbe sentire per forza perché sono 10 watt questi, anzi 15 per esattezza, quindi la cosa cambia tra l'FM500S a questo, una cosa diversa. Lì dove ti arrivo? Sul più dove ti arrivo? Sul più anche qua arrivi. Che tu sei sul più del 30, sul 430 che è abbastanza preciso, molto preciso, questo è stato tutto revisionato a poco, anche se lo uso diciamo quasi niente, c'ho anche l'altro, c'ho anche il 757, ogni tanto li accendo, oramai non me ne ha fatti più nulla. Va bene, Antonio, dai, sono entrato a salutarti, come vedi, io no, non è che ci sto molto a radio. Salutami Vannino, se rientra, o se mi stai ascoltando, Vanni, tanti saluti. Gianfranco, insomma, un po' tutti, dai, già ci sentiamo alle prossime, ok? Ciao Claudia, ci sentiamo, dai, che sto chiudendo, perché ho delle cose fine da fare. Ciao a tutti, la buona serata. Ciao Vanni, alle prossime. Ciao Antonio. Ci riascoltiamo, dai, lascio tutto acceso, ma ho da fare. Ci sentiamo, ciao. Sì, d'accordo, ciao Claudia, ci sentiamo, ciao anche Vannino, saluto anche a te. Ci sentiamo, rimango all'ascolto. Ciao Padre Roger, ciao. Ciao. Non ci sentono, cambio. Ciao Canaici, ma la zona se tutti ascolto nessuno mi esce fuori. In gamba, gli scegli. Sensore 10, c'è qualcuno? Sensore 10, c'è qualcuno? Casa, telefono, casa.